fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, ma soprattutto siamo tornati in compagnia degli ospiti, dei festeggiati di questa serata. Un altro quartetto, parlavo prima con un altro addio nubilato di ragazze bresciane, se non ricordo male, che anche loro erano in quattro e adesso capiremo il motivo. Dicevano che hanno preferito fare una cosa un po' più intima, un po' più riservata. E quindi dicevo, ho un'altra sposa, un altro addio nubilato da festeggiare. Andiamo a conoscere la protagonista qui vicino a me. Benvenuta, come ti chiami? Irene, benvenuta. Allora, da dove vieni, Irene? Da Verona. Verona, e anche qui abbiamo già più o meno capito il motivo della tua festa, ma ricordacelo tu. Per il mio addio nubilato. Il tuo addio nubilato. Allora dai, chi sarà il fortunato sposo che ti verrà accanto a brevissimo? Fortunatissimo, Matteo. Fortunatissimo addirittura. Certo. Come mai? Perché ha trovato me. Ha trovato te, tanta roba. E come mai, cioè nel senso, come mai ha trovato te? Ok, però nel senso, cos'hai tu rispetto alle altre? Cioè, come mai deve ritenersi davvero così fortunato? Perché son perfetto. È la più bella! La più perfetta, benissimo. Guarda, ricordo solo una persona che diceva cose così ed era Mary Poppins. Quindi diciamo che ti sei messa più o meno sullo stesso piano di Mary Poppins, te lo dico tanto per che tu ne sia, ecco, a conoscenza. E mi piace questa tua sicurezza, brava. E dicevamo prima delle tre amiche, immagino c'è, no, solo loro. Siamo in 20. Niente, il discorso è già saltato. Allora le tre che sono rimaste qui, ce le vuoi presentare? Sì, allora c'è Vanessa che è la ragazza del mio fratello. No, ragazzi, mio fratello, ok. Non mi cominciare col beautiful perché sennò mi si impappa il cervello. Gioia, Giorgia e Francesca. Loro sono ragazze di cugini vari, no? Allora, una è la ragazza del fratello di mio moroso, futuro marito. Ok. E l'altra è una mia amica. Ah, ok, perfetto. Ancora single? No. Ah, ok. No, perché sennò c'è... Nessuno single. Ah, ok, no, perché sennò cercavamo cugini, insomma, cercavamo in famiglia di piazzare anche lei, che sembra tipo cos'è, il Cluedo, no? Il gioco di che metti le pedine solo in famiglia, ci rimane solo in famiglia o in giro, nel giro familiare. Ok, beh, comunque tutte amiche, quindi. Sì. Amiche anche, immagino, acquisite, no? In qualche caso, perché. No, queste no. Ah no, beh, tutte conoscevi già. Lei per forza di cose, Ok, e allora dai, diciamo anche un complimento a Mattia, però, perché. A Matteo, perché dopo che tu hai detto che sei perfetta, diciamo qualcosa di bello anche di lui. Matteo è dolce. Sì. È premuroso. Ah sì, premuroso. Sì. Che è un po' un uomo di una volta, no? È l'uomo premuroso. No, è bravissimo, bravo ragazzo. Sì? Oh, bene, ci fa piacere. È premuroso come mai? Cioè, nel senso, come ti dimostra questa... Perché mi dà le attenzioni che mi servono. Sì? Tipo? Mi sta vicino quando ho bisogno, mi fa dei piccoli gesti, dai, carino. Ma che bellissimo, è bellissimo, fantastico. È sempre che parli, sai, del quando eravamo piccolini che c'era il pupazzetto, il nostro preferito, e te non ne parla... con una fantastica tenerezza, con una bellissima tenerezza. Ok, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi approfittare per mandare un altro messaggio a qualcuno? Ringrazio tantissimo le mie amiche perché sono state fantastiche, è una serata stupenda. No, oh, bene, l'avete organizzata tanto tempo fa? Ah, non lo so, devi chiedere a loro perché... Beh, tu non ne sapevi nulla, immagino. Zero. Quindi da un po' che la mettete in piedi. Perché gli vogliamo bene. Sì? E come mai? Cioè, in che senso? Non ho capito il messaggio che c'è sotto. Ci vogliamo bene, quindi abbiamo fatto una grande festa. Ah, avete fatto una grande festa, ok, capito. No, ero legato ancora, l'abbiamo organizzata da tempo perché le vogliamo bene, infatti non capito. No, gli vogliamo bene, abbiamo organizzato una grande festa e... Beh, tu sei soddisfatta? Moltissimo. Oh, bene. E no, a questo punto raccontaci un attimo anche com'è andata con Mattia. Matteo! L'ho fatto apposta. Dai, dici com'è andata, perché se tu sei perfetta per lui e lui è così buono e premuroso, cioè nel senso, come vi siete conosciuti, come è avvenuto il vostro approccio? Ci siamo conosciuti 11 anni fa. Ah, beh, tantino, eh? Sì, tantino, sì. Perché era amico delle mie amiche. Sì? Andavano fuori compagnia, okay. E l'ho conosciuto una domenica in montagna. Camminando, no? No, escursione. Sono andati sulla neve. Ah, sì, ok. E come c'è, cioè, nel senso, come è andata, come vi siete approcciati? Allora, quel giorno niente. Zero. Niente, odio, no. No, no. Repulsione. No, no, niente. Dopo lui è sempre stato amico di mio fratello. E con la ma, ma veramente, è tutto, cioè, è tutto un ingrifamento. Un ingrifamento familiare, è incredibile. E dopo con la scusa di venire a trovare mio fratello, veniva a trovare me. Quindi diciamo che il primo interesse l'ha mostrato lui. Sì. O ipoteticamente, insomma, sì, l'ha mostrato lui. A farsi, cioè, a farsi avanti, a far sì, capire sì. che. Sì. A far capire che. E è una cosa che voi avete ogni tanto. Tu avevi, come dire, annusato aria di broccolamento, come si dice da noi, o eri innocente? Cioè, nel senso, quando hai cominciato a vederlo più spesso, hai detto, secondo me ci sta a provare. Sì, sì, ho capito. Vedi, perché, perché voi avete questa dote veramente, cioè, non so, quasi chimica, no? Che voi proprio annusate l'aria, cioè, capite le cose prima che accadano, o comunque sia, capite soprattutto le intenzioni prima che siano manifestate. Come mai? Come fate ad avere questo potere? Donne, donne. Ma come mai? Come mai? Da dove arriva? Cioè, allora facciamo così. Sì, sì, ci siamo, adesso pronti? No, dicevo, tu, allora diciamo, tu da dove l'hai capito? Da, beh, si vedeva. Si vedeva. Era palese. Ah, era palese. Cioè, e pensa che, cioè, adesso mi sto immaginando lui, Matteo, bene, sono andata bene. No, dicevo, mi sto immaginando lui che si fa 200 filmini e dice, allora, aspetta, faccio così, così magari le faccio capire, ma non troppo, perché poi non voglio essere troppo invadente subito, troppo, come dire, troppo, sì, invadente. Però devo farle capire che, e invece lei era lì che c'ha, dai, ho già capito, cioè, inutile che stai lì. Perché noi poi dall'altra parte cerchiamo sempre il modo giusto per, no? Per non essere troppo, ma nemmeno troppo poco. E ma non ci accorgiamo mai che voi siete già 9-10 passi avanti. Però è bello questo, questo gioco dalle parti che, come dire, si ripete tante volte in tanti casi. E però mi fa piacere che alla fine sia andata bene, da quanto, insomma, già solo i tuoi occhi trasmettono la, la gioia e la felicità. Ok, ok, va bene. Allora, grazie andiamo mille. Andiamo a cantare. Andate a cantare, assolutamente. Dai. Avete già scelto? Alba Chiara. Alba Chiara, classico, grande classico, grande classico. Ok, allora vi liberiamo, vi facciamo andare grazie. A cantare la vostra canzone nella nostra area YouTube. Grazie mille Irene, grazie mille grazie. Alle sue amiche per averla portata qui con noi e tanti auguri per il tuo grazie futuro matrimonio. Grazie. A presto, grazie. Ciao! Ciao.